Benvenuti a tutti, puntata numero 15 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA su Radio Big World. Riparte finalmente la stagione dopo una pausa a causa All-Star Weekend, percepita più lunga di quanto effettivamente è stata, visti i ritmi ai quali siamo abituati quotidianamente. Abbiamo seguito con interesse e probabile speranza le rivoluzioni tanto previste nella deadline di mercato qualche ora dopo la chiusura della nostra puntata settimanale passata. Nessun botto dell'ultima ora, o almeno nessun clamoroso passaggio di quelli annunciati è avvenuto. Carmelo Anthony, Paul George, Danilo Gallinari, Jimmy Butler, Derrick Rose sono rimasti esattamente dove stavano. Abbiamo già citato l'avvento dell'era Twin Towers 4.0 a New Orleans con l'arrivo di DeMarcus Cousins a fianco di Anthony Davis. Abbiamo già detto del possibile importante impatto a Houston di colui che era il miglior realizzatore dei Lakers pur essendo sesto uomo, Lou Williams, e precedentemente dell'approdo di Serge Ibaka a Toronto. Cosa è successo quindi nelle ultime ore concitate di probabili scambi? Dobbiamo dar la medaglia dell'ultimo giorno di Oklahoma City Thunders, che si sono presi due buoni giocatori dei Chicago Bulls come Ty Gibson e McDermott per rafforzare il contorno attorno a Westbrook. Quelli della città del mento si sono presi a mio avviso poca roba: Cameron Payne, Jeffrey Lovin, Anthony Morrow. Affarone però che sì, quantomeno, perché sulla carta due giocatori del genere potevano davvero essere utili. Nel frattempo anche Bojan Bogdanovic è passato dai Nets ai Wizards. Un giocatore che stava facendo piuttosto bene a Philadelphia, Hersan Ilyasova, è finito ad Atlanta in cambio di Tiago Splinter e due seconde scelte del draft 21. Anche in Orleans Noel, come prevedibile, lascia la città dell'amore fraterno, dove in quel ruolo c'era più che abbondanza, per i Dallas Mavericks in cambio di un Andrew Bogut destinato ad essere subito tagliato ed accasarsi come potenziale uomo in più ai Cleveland Cavaliers. I Nuggets, che dovevano rivoluzionare un po' tutto, alla fine sono accontentati di scambiare Yusuf Nurkic con Portland in cambio di Mason Plumlee. Un altro giocatore caduto decisamente nell'oblio dei poco utili, soprattutto dopo la pessima esperienza a Los Angeles dell'anno passato, Roy Hibbert, cambia di nuovo passando sempre a Denver, lasciando Milwaukee. Deron Williams è stato invece tagliato da Dallas ed, essendo l'oggetto conclamato del desiderio di LeBron James come cambio per Kyrie Irving, era molto probabile indovinare dove avrebbe finito per accasarsi. Si ritorna quindi in campo e ovviamente alla ripresa del 23 febbraio grande attenzione sulla prima partita dei Pelicans con le Twin Towers in campo, un po' presto per pretendere di vedere qualcosa ristrutturato in conseguenza all'arrivo appunto di Cousins a fianco di Davis. Intanto i Sacramento Kings, orfani di Boogie, vincono contro i Denver Nuggets con un Darren Collinson che chiude con 15 punti e 10 rimbalzi e uno straordinario contributo dalla panchina. I Pelicans invece perdono con una delle squadre protagoniste del mercato di metà stagione, gli Houston Rockets. La partita finisce 129-99 per i texani, che hanno tra le loro fila un ridimensionato James Harden da 13 punti ma 14 assist. L'impatto del nuovo arrivato Lou Williams, ex Los Angeles Lakers, è 27 punti in 25 minuti con 7 triple, assolutamente non male. Dall'altra parte, Cousins inizia indubbiamente bene, chiude con 27 punti, 14 rimbalzi, 5 recuperi, 5 assist e 4 stoppate. Al suo fianco Anthony Davis ne mette 29 con 9 rimbalzi, ma non bastano. New Orleans sarà comunque un cantiere interessantissimo da visionare da qui alla fine della stagione. Nelle altre sfide, vittoria dei Cleveland Cavaliers sui New York Knicks con un James in tripla doppia da 18 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, e vittoria degli Warriors sui Clippers con uno Steph Curry da 35 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 6 su 10 da 3 punti. Andiamo con rapidità a citare le top performance del resto della settimana, perché il tempo a disposizione in questa puntata vorrei utilizzarlo per qualcos'altro. Partiamo subito, 24 febbraio, i Wizards perdono dai Sixers, sempre senza Joel Embiid, ma Bradley Beal ne scrive 40. Stessa notte e Super DeMar DeRozan da 43 nella vittoria dei Raptors su Isaiah Thomas e i Celtics. Westbrook va in tripla doppia con la bellezza di 18 rimbalzi e 17 assist nella vittoria di OKC sui Lakers, mette anche 18 punti. 25 febbraio, vincono in volata New York Knicks al Garden contro i Sixers e Carmelo Anthony li salva letteralmente dal baratro, scrivendo 37 al referto e segnando il tiro in step back praticamente sulla sedia della vittoria. Per emozioni, probabilmente, questa è il partitone della settimana, quantomeno per le emozioni dell'ultimo minuto di partita. Le Twin Towers perdono ancora contro Dallas. Per Davis ci sono 39 punti, per Boogie solo 12, seppur con 15 rimbalzi, ma anche 7 palle perse. Sfida della non difesa tra Minnesota Timberwolves e Houston. I Rockets la vincono 142-130 mandando in doppia cifra 8 giocatori sui 10 in campo. Dall'altra parte non bastano 30 punti di Andrew Wiggins e 37 di Karl Anthony Towns. Pelicans sconfitti anche di domenica sera contro i Thunders di un Westbrook da 41 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Le Twin Towers combinano per un totale in 2 di 69 punti. Boogie ne mette 31, Davis ne mette 38. Per loro due non è certo un problema di tiro a disposizione, magari potrà esserlo per gli altri. I Clippers battono gli Hornets con 43 punti di Blake Griffin, ma soprattutto con un Chris Paul da 17 assist e 15 punti. Pur tirando male, è comunque una gioia rivedere in campo ai suoi livelli CP3. Bella partita tra Knicks e Raptors al Garden il 27 di febbraio. DeMar DeRozan, strepitoso, tiene a contatto la sua squadra negli ultimi minuti assumendosi eroicamente tutte le responsabilità. Chiude con 37 punti e il canestro della vittoria praticamente allo scadere. Per la verità, Carmelo Anthony ha la chance di rispondere con poco più di un secondo sul cronometro, ma stravolta gli va fuori. 91-92 per Toronto. Statisticamente l'evento della notte è lo 0 su 11 da dietro l'arco dei 3 punti di Steph Curry nella vittoria degli Warriors a Philadelphia. Il fratellino Seth invece fa decisamente meglio, chiudendo con 29 punti e 5 su 7 da 3 punti nella vittoria dei Mavericks sugli Heat. I Cavs continuano ad avere tanto da Derek Williams, che chiude con 14 nella vittoria dei campioni sui Bucks. Lui, Kyle Korver, Andrew Bogut e Deron Williams, che ha appena firmato, rappresentano veramente una serie di buone scelte di mercato da aggiungere ai campioni uscenti in vista della seconda parte di stagione e soprattutto della post season. Considerando i rientri in prospettiva di Love e J.R. Smith, che sono attualmente infortunati, aggiunte da 10 per i Cleveland Cavaliers, a mio avviso, nettamente rinforzati a livello di roster rispetto anche all'avvio di stagione. Chiudiamo con la cronaca brevemente, il bollettino infortuni. Joachim Noah termina anzitempo una stagione disastrosa, la prima da Knickerbocker, onorando un contratto da 72 milioni di dollari per 4 anni. Dovrà sottoporsi ad un'artroscopia al ginocchio. Fuori, a tempo indeterminato, invece Joel Embiid, anche lui per un problema al ginocchio, che al momento per fortuna non prevede un intervento chirurgico. Qualche giorno fa era stato reso noto ulteriormente che l'esordio di Simmons a Philadelphia sarà rimandato molto probabilmente, anzi sicuramente, alla prossima stagione, causa tempi di recupero dell'infortunio occorso in pre-season. Esuliamo per un attimo dall'NBA, ma non del tutto. Il fine settimana trascorso erano in programmazione al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, la bellezza di due repliche delle Olimpiadi del 1936 di Federico Buffa. Se io sono qui a parlarvi, e qualcuno di voi probabilmente mi ascolta, lo dobbiamo probabilmente, anzi sicuramente, a lui e a quell'altro che continua a prestare la sua voce alla cronaca delle partite su Sky Sport, Flavio Tranquillo. Qui lo dico principalmente per me, ma credo di parlare un po' per tutti. La voce che ha accompagnato i miei primi approcci con l'NBA vista in televisione è stata quella di Dan Peterson. Bizzarro quanto volete, ma solo per la posizione che ricopre a livello di cultura cestistica nel nostro paese non gli si può dire niente. In seguito ricordo un tale Ugo Francicanava, con i suoi termini un po' fumettistici tipo mondo dell'iperbasket, e a seguire un Guido Bagatta un po' borderline a livello di coinvolgimento, un attimino meglio quando veniva affiancato in telecronaca dal compianto Tullio Lauro. Diciamo comunque che in quegli anni era più facile innamorarsi del gioco per quello che si vedeva o si leggeva, ad esempio su American Super Basket, che per quello che si ascoltava. Fino a quando, nell'allora Tele più 2, non iniziarono a commentare le partite quei due là. Impeccabile e indiscutibile Flavio Tranquillo, ammaliante e fiabesco Federico Buffa come seconda voce. Il desiderio di una partita settimanale caratterizzata da 24 minuti di garbage time per sentirli dialogare alla loro maniera era diventato per me quasi un'abitudine. Negli ultimi anni poi le cose si sono evolute. Buffa ha scritto, ha cambiato format televisivi, ha iniziato a narrare storie di sport, ritagliandosi uno spazio personale nel mondo del giornalismo sportivo che è stato acclamato come rivoluzionario. Lui però l'ha detto subito: non ho inventato niente, la narrazione sportiva è sempre stata parte fondamentale del giornalismo sportivo stesso, con la spettacolarizzazione però degli eventi e la sete di attualità da consumarsi in diretta e mettere subito in un cassetto forse si era un po' persa, ma è solo questione di aver voglia di tornare a riascoltarla. Del resto, chi considera lo sport come un qualcosa per buzzurri ignoranti che discutono di niente al bar non ha forse ancora capito l'importanza nella storia e nella cultura umana di questo. A dimostrazione di ciò, l'avvocato è alla fine sbarcato pure a teatro e da 2 anni sta portando in giro per l'Italia questo capolavoro teatrale che è le Olimpiadi del 1936. Quando qualche mese fa ho visto che Federico Buffa sarebbe venuto a teatro a pochissimi chilometri da dove vivo, sono entrato in agitazione pura, ovviamente pensando a quello che ha rappresentato per me in chiave NBA e valutando anche l'inizio di questa avventura personale che si chiama NBA Week, ho da subito pensato all'idea malsana di potergli fare qualche domanda. Un'idea malsana appunto, perché se un artista porta in giro uno spettacolo che parla di un evento fondamentale per la storia politica dell'Europa e del mondo, tutto probabilmente vuole meno che un coglioncello con la mano tremolante che a pochi minuti dalla messa in scena gli chieda ad esempio quanto l'arrivo di Cousins a New Orleans possa rivoluzionare potenzialmente gli equilibri della Western Conference. Oltretutto è chiaro che le Olimpiadi del 1936 si regge sul genere narrativo di Federico, ma non citare i talentuosi musicisti che lo accompagnano sul palco sarebbe indubbiamente un peccato. I duetti infatti tra il pianoforte e la fisarmonica di Alessandro Nidi e Nadio Marecco, impreziositi dalla splendida voce di Cecilia Gragnani, che canta se non erro in quattro lingue diverse, sono quello che serve per rendere l'atmosfera data dal racconto dell'avvocato ancora più realistica, ancora più fisica. Infatti i miei occhi, recentemente rinnovati dalla già detta operazione killer della miopia, si sono riempiti di lucciconi almeno tre volte, e non per colpa delle lacrime artificiali con cui devo giornalmente lubrificarli per qualche mese post operazione. La casualità è comunque il sale della vita, e nel mio caso, per quanto fossi combattuto e mi sia sbattuto per trovare un modo autonomo per capire quando poter incontrare Federico anche soltanto per stringergli la mano, non avevo calcolato la strada più facile e ovvia. Ora, io qui mi presento a voi come Julian Carax, che è ovviamente uno pseudonimo, e colgo anche l'occasione per dire al mondo intero che non sono Belli 13. In tanti su YouTube pensano che io e il Belli siamo la stessa persona, ma non è così. Il Belli è uno che ha scelto di dar fiducia e senso a questo podcast ripostandolo sul suo canale YouTube. Oltre ad essere il paladino e l'eroe di ogni italiano che vuol seguire l'NBA e non può permettersi di pagare abbonamenti vari. Nella vita vera, però, io ho ovviamente un nome e un cognome, e tra le altre cose collaboro per un sito web di informazione locale che è anche piuttosto letto, si chiama Valdarno Post. La casualità è che a Valdarno Post, contrariamente da quelle che potevano essere le mie previsioni al riguardo, un articolo intervista a Federico Buffa interessasse anche pubblicarlo, e quindi il designato miracolato della cosa sono stato io, che avevo già comunque i biglietti per lo spettacolo in tasca. Così ho avuto modo di registrare il dialogo fra me e altri due giornalisti nel tempo che Federico ci ha dedicato rispondendo alle nostre domande. La registrazione tra l'altro è venuta piuttosto bene, nel senso è comunque ascoltabile, e un paio di estratti ho deciso di riportarveli qui, diciamo come regalo. Sì, perché anche nella condizione in cui Buffa debba rispondere potenzialmente alle solite domande medie che tutti gli fanno, magari di fretta perché va in scena un'ora dopo e a causa di un ritardo indipendente dalla sua volontà è arrivato in loco poco prima, lui riesce comunque a dedicare del suo tempo a rispondere e farcisce le risposte di piccole storie, esempi inediti rispetto allo spettacolo, che ammaliano chiunque si trovi nella sala in quel momento, principalmente gli addetti ai lavori. Per dovere di cronaca, eravamo in tre giornalisti, io non mi definisco tale, gli altri due probabilmente lo sono, anche da un punto di vista di patentino. Due dei tre estratti a seguire sono a risposta delle domande di Andrea Tani, giornalista sicuramente più vero del sottoscritto. Quindi andiamo ad ascoltarci questi tre estratti del Buffa Pensiero in relazione al suo spettacolo. Il primo estratto è il seguente, in relazione alla domanda su quanto le Olimpiadi del 1936 portino con sé argomentazioni attuali, se non autentiche chiavi di lettura per interpretare la realtà sociopolitica odierna. Sono state non solo l'inizio dello sport moderno per come lo conosciamo oggi, anche a livello di copertura mediatica, per non parlare della voluta magnificenza organizzativa voluta dal regime nazista, ma sono state oltretutto un autentico crocevia storico tra le due grandi guerre. Sentiamo quello che ne pensa, appunto, l'avvocato Federico Buffa. Io la parte narrativa, che è la parte in evoluzione, cioè una parte teatrale, è quella in cui io sono sulla pedana rossa, e la pedana rossa è dove sono il personaggio che devo addirittura interpretare. Viceversa, la parte sotto, verso il pubblico, è una narrazione di un uomo che sta vivendo la contemporaneità. Io posso cambiare la parte narrativa, cioè è quella, però io se penso che il pubblico reagisca, allora se lo trovo forte come respiro, allora ogni tanto metto delle cose. L'altra sera c'era un pubblico che reagiva molto bene, abbiamo avuto un bellissimo pubblico, a Udine, e allora ho inserito una cosa che non avevo detto prima, e se volete ve la condivido, ovvero sia, io a un certo punto racconto che l'uomo che ha evitato il boicottaggio degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici Berlino, vale a dire Avery Brundage, che però è lo stesso che nel 72 da presidente del Comitato Olimpico Internazionale fa continuare le Olimpiadi dopo l'assalto di Settembre Nero alla Palazzina di Israele, era oltre che un noto antisemita anche un filo nazista, e il giorno dell'incontro dell'amicizia nazi-americana a New York, perché c'è stata anche quella, lui prende la parola e dice perché bisogna andare a Berlino. Il motto di quella, diciamo, parte della società politica americana tra cui Charles Lindbergh, il famosissimo trasvolatore atlantico, era America First, che potreste aver sentito però anche in una campagna più recente. Cioè, quello che dicevano loro nel 1936 curiosamente è attuale addirittura negli Stati Uniti di oggi. Oppure il centro tecnico di Coverciano, dove si inaugura la nazionale italiana, quanti chilometri da qua è? 25? Perfetto. L'ha voluto il presidente della Fiorentina Ridolfi, ma il presidente della Fiorentina Ridolfi era il capo delegazione a Berlino 36 dell'Italia, e fece fare Coverciano esattamente come il villaggio olimpico dove soggiornavano gli atleti azzurri allora. Cioè, l'Olimpiadi di Berlino è qui. Una cosa in più, l'Italia arriva quarta nel medagliere, è la migliore Olimpiadi di sempre per l'Italia. Ogni vincitore di una medaglia d'oro aveva in regalo una piccola quercia, perché i tedeschi viravano indietro al loro paganesimo originale, la quercia è uno dei simboli di Odino. Quindi ho ricevuto varie fotografie da tutta Italia, perché ce ne sono 17-18, questa è la quercia del nonno, questa è la quercia dello zio, che sono state piantate e sono sopravvissuti agli uomini. Addirittura i tedeschi, nella loro incredibile organizzazione e follia, due Olimpiadi nello stesso anno, sono gli unici nella storia dell'umanità che potevano permettere, invernali a Garmisch in febbraio, estive a Berlino in agosto, fuori dal mondo, pensavano che la quercia sarebbe sopravvissuta agli uomini, e quindi il simbolo, il segno di queste Olimpiadi sarebbe stato ancora più duraturo, che era proprio l'idea che avevano. La loro storia è 12 anni della storia del mondo, 12 anni sono un battito di ciglia, e invece è incredibile, una presenza mostruosamente forte, attualmente forte, che sembra non potersi esaurire nella sua carica eversiva tremenda. Federico, lo abbiamo sentito raccontare Michael Jordan, Diego Armando Maradona, il grande Torino, Muhammad Ali recentemente e molti altri, e molte altre storie. Qui invece ci dice chi sceglierebbe se potesse raccontare un qualcuno tra gli sportivi contemporanei. Io ho una passione assoluta per Michael Phelps, io credo che sia uno dei più grandi atleti di tutti i tempi, forse il più grande, soprattutto a quel componente di maledetto che lo rende unico, ovvero sia non è un cittadino irreprensibile, è rinato 6-7 volte, se sta in acqua è il più grande nuotatore di tutti i tempi, e lo ha dimostrato il numero di Olimpiadi che, calcolando la competizione che ha, è del tutto inspiegabile. In Italia un'altra cyborg di quel tipo lì è stata la Vezzali. La Vezzali è stata competitiva, direi, in 4 Olimpiadi. Non c'è un atleta italiano che è stato competitivo ad altissimo livello in 4 Olimpiadi. E mi hanno detto, io non la conosco personalmente, che la Vezzali non vuole perdere neanche a chi fa il numero di Pascalini qua, cioè che quella ossessione competitiva che ti brucia dentro ti fa diventare così forte. Oltretutto qualcosa ci ha detto anche sul futuro, su quella che può essere la sua prossima avventura sui palchi dei teatri nazionali, in questo evidente ciclo quindicinale della sua carriera professionale. Il prossimo spettacolo sarà uno spettacolo senza una componente sportiva e con un maggior coinvolgimento del pubblico giovanile. Questo spettacolo, che doveva durare 3 repliche, ne farà 126 e probabilmente raggiungerà 60-70 mila spettatori. Il 35-40% sono giovani italiani sotto i 30 anni, a volte anche sotto i 25, che a teatro palesemente non vanno abitualmente. I direttori dei teatri ti dicono, beh, come mai? Ecco, se questo tipo di pubblico si è fatto raccontare una storia di 80 anni fa con un affidamento di valore, cioè con una posizione un po' passiva, è stato così attento, coinvolto, allora secondo me c'è il dovere di provare a fare una cosa dove invece siano coinvolti, sia un tema di oggi, dove loro possono interagire, cioè che lo teatro così è il teatro degli ultimi 2500 anni della storia, ma c'è ormai un teatro comunicativo contemporaneo dove pubblico, spettatore e interazione con chi è sul palco o presunto palco è diventato normale. Ecco, io penso che sia arrivato il momento di fare, specialmente in una logica universitaria italiana, qualche cosa dove i ventenni italiani entrino nello spettacolo fisicamente, e credo ci sia una possibilità, una storia molto bella, secondo me, è una storia attuale. Uno di questi è un Apple, qualcuno di quelli che avete in mano, perfetto, quella cosa che hai in mano si deve alle idee di un uomo che ha coniugato forma e funzione come pochi, Steve Jobs, ma al giorno del suo discorso, diciamo così, di legacy nei confronti dell'umanità a Stanford, ha detto una frase che l'ho detto a Catchy, che è rimasta molto nell'immaginario collettivo, stay hungry, stay foolish, però come diceva lui, non l'ho detta io questa frase, la sto prendendo da qualcuno. Ecco, andiamo a raccontare la storia di quel qualcuno che è vivo, tra l'altro, vive su una barca a Sausalito dall'altra parte del Golden Gate, ed è una storia che attraversa 40 anni negli Stati Uniti, proprio di questo tipo, cioè quelli che hanno avuto le idee di cui oggi fruiamo. E se Steve Jobs ha detto che quello l'ha ne avuto più di lui, vuol dire che quello ha evidentemente una testa da recuperare. prima che se ne vada mi piacerebbe raccontare la sua storia. Ci avevamo già provato con Sky, però lui non voleva farsi intervistare. Ha quasi 80 anni, è lucido, lucidissimo, però non voleva apparire in video. Ma avevamo raccolto talmente tanto materiale su di lui che ci piaceva l'idea di poterlo in qualche modo condividere. E questo sarebbe il sogno dal punto di vista di uno spettacolo teatrale, un pubblico universitario, senza che nessuno possa star fuori, però universitario, che interagisca con te su una cosa di cui fruisce mentre succede. Bene, spero di aver fatto cosa gradita. Se non siete ancora andati in 2 anni a vederlo a teatro, il consiglio che vi do io è di andarci, anche perché temo che si tratti delle ultime volte con questo spettacolo, le Olimpiadi del 1936. Per quanto riguarda invece NBA Week, la prossima settimana torneremo presumibilmente nel formato tipico, comprensivo di mashup settimanale, della prestazione della settimana, del partitone della settimana, della rimembranza della settimana. Gli appuntamenti sono sempre gli stessi. Andiamo in onda sul flusso streaming di Radio Big World tutti i giovedì sera alle 21.30. A partire dalla mattina del venerdì siamo in podcast nel SoundCloud della radio e su YouTube nel canale di Belli 13, che farcisce la puntata con l'aggiunta di video e di immagini ad hoc. Su www.medium.com/NBA Week, il nostro blog, tutti i venerdì mattina pubblichiamo un blog post con i video della settimana da rivedersi, stavolta anche con il link testuale dell'intervista buffa che ho personalmente firmato e pubblicato appunto per Valdarno Post, di cui vi ho appena parlato, o comunque di cui vi ho precedentemente parlato. Benissimo, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la fiducia, ci sentiamo la prossima settimana con NBA Week.